音精华，声系天下。北京人民广播电台公益广告。 我是消防车，守卫着这座城市。 出发。 很多人说我有红色的铠甲，坚定的信念和无坚不摧的体魄。可是，每当看到人们因为不小心的疏忽造成难以挽回的损失，我的心…… 提高消防意识，远离火患，幸福平安。 带您遨游缤纷多彩的 CD 世界，带您畅享音乐的盛宴。北京音乐广播古典音乐有限频道，调频98.6兆赫，每天7点19点播出 CD 博览。 欢迎收听 CD 博览，我是古月。今天为你带来的是迪卡唱片公司2008年为年轻的男高音歌唱家 Jonas Kaufman 出版的专辑，这也是他的第一张专辑。 Jonas Kaufman 是歌剧界的一颗新星，但他已经出演过了从莫扎特到瓦格纳歌剧中很多角色，声音和形象都很不错。这张唱片里收录的是他演唱的普契尼、比才、威尔第、威伯、瓦格纳等作曲家的著名歌剧唱段，下面请连续欣赏。

Thank you. Max bringt Wut Io voglio te fedele. che disse vivere io voglio te fedel sì sì e l'universo in me vivo quasi in cielo, sì, io vivo quasi in cielo, io vivo quasi in cielo. Donde vieni? No, Parigi. Chi te il commise? Fu la mia signora. Perché? Per non ero con le mani quanto un cuor possiede. Che mai sento? Lo spinto di grande a vivermi sollevi. E tacevi? E forse le sei imposto. Imposto? Orfa, bisogna. E me lo dici? Orvan, andrò a Parigi. Questo colloquio non sappia la signora di tutto va per riparare oh mio rimorso infame io vissi in tale errore ma il cor peso Sweet. Spingesse, schiusera l'uscio e la magion deserta. E dove ora sarà quell'angiol caro, colei che prima poté questo cuore destar la fiamma Oh. Thank you. Thank you. sommer